638. Torta di riso. Latte 1 litro, riso grammi 200, zucchero grammi 150, mandorle dolci con 4 amare grammi 100, cedro candito grammi 30, uova intere numero 3, rossi d'uovo numero 5, odore di scorza di limone, una presa di sale. Le mandorle sbucciatele e pestatele nel mortaio con 2 cucchiaiate del detto zucchero. Un candito tagliatelo a piccolissimi dadi. Cuocete il riso ben sodo nel latte, versateci dopo il condimento e quando sarà ghiaccio le uova. Mettete il composto in una teglia unta col burro e spolverizzata di pangrattato. Assodatelo al forno o tra 2 fuochi. Il giorno appresso tagliate la torta a mandorle e solo quando la mandate in tavola spolverizzatela di zucchero a velo.